È uscito da poco un nuovo singolo con anche un video di Iskra Menarini, L'Uomo Infinito. Ne parliamo proprio con Iskra, che è al telefono con noi. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Non è un bel tempo, però ci vuole un pochino d'acqua, dai. No? Sì, esatto. Assolutamente sì. Allora, Iskra, questo tuo brano nasce in realtà da un sogno, no? Tu hai sognato Lucio. Sì, quando lui se n'è andato, è come se mi avessero portato via, non dico una mamma, comunque anche nel brano c'è scritto madre, perché comunque avevo un rapporto non soltanto su un palco, ma 25 anni, una vita praticamente, e quindi sono stata ferma un anno senza fare niente, proprio non me la sentivo, e anche da lì io dicevo, ma se, dove sei andata a finire? Cioè, noi sogniamo, no? Sempre. Il cervello di notte non si ferma mai, poi ricordi le cose e le dimentichi, quindi non era la prima volta che comunque sognavo un po' così, di non chiacchierare neanche tanto, ma delle domande che non avevo risposte, però dicendo, fra altre cose, io non c'ero quando lui, la parola morto mi dà molto fastidio, quando lui è diventato un uomo infinito, perché facciamo prima, non me ne capacitavo, sono stata malissimo, non c'ero là, e sono una persona semplice, dicevo, ma se ero là, perché ho avuto un problema per una persona a me cara, io sono testimone al nazionale di Asma, associazione dei donatori midollo osseo, cerchi di capire, no, non posso dire il nome così, però non potevo fare questa tournée, e quindi mi sembrava di averlo lasciato lì, perché io ero molto protettiva nei suoi confronti, tantissimo, poi andavo a casa sua, mi chiamava alle 3 di notte, come hai sentito anche nel video, ho visto, mi sono fatta un po' male da sola, perché comunque mi sentivo, no, colpevole no, però ho detto, ma pensa a te, tanti anni sempre vicino, massaggiavo, si parlava di tante cose, e guarda te, va a morire che non ci sono quelle cose strane, no? Quelle cose molto umane comunque, perché sei affezionata a una persona, lo sentivo spesso, mi mandava dei messaggi, mi giro, non ci sei, adesso quando torno, che ho ancora dentro un cellulare, e poi una bella notte invece è stato tutto molto diverso, perché io in un sogno non sono pazza, non sono normalissima, sono una persona molto particolare, però la pazzia è un'altra cosa, la pazzia può essere anche quella cosa che ti porta verso una strada per ascoltare e vedere di più, chiamiamola così. Lucio diceva così, che la pazzia non è uno che è pazzo, è uno che vede le cose, ascolta e ha il coraggio di dirle, e quindi in un sogno mi sento dire, ti ho lasciato una bicicletta, punto. I pedali li dovrai mettere tu. Io mi sono svegliata, ripeto, non era la prima volta che chiacchieravo con lui, solo che ero solo io poi a fare delle domande e non sentivo mai nessuno che mi rispondeva. E così ho detto, ma che strano però, perché si sogna. Ieri sera ho sognato dei gattini, poi magari stasera non sognerò niente perché non mi ricordo, però sogniamo tutti. E la mattina ho cominciato a dire, Lucio, diciamo la verità che eri tu ieri sera, ma così, ma parlavo con nessuno che stavo facendo colazione, ma tu hai la pretesa di essere infinito, perché comunque qua io ti sogno spesso, quindi fammi sapere, non mi dire mi dai la bicicletta e poi pedala, io non faccio quasi più niente, e questa parola, l'uomo infinito, mi è rimasta lì e ho detto, Iskra, perché invece di chiedere a lui non provi a scrivere un brano? E siccome io ho imparato da lui a scrivere, non, attenzione, non ho imparato quello che scriveva lui, magari, comunque ho scritto 4-5 brani, Silenzio, con i bambini dell'Antoniano, C'era una volta l'amore, poi hai capovolto il mio destino, appunto dedicato ad Admo, con degli artisti dentro veramente importanti, quindi lui ha fatto in modo che mi volesse bene la gente, anche c'era Carlo Verdone, Frizzi, Bounzy, tutta sta gente qua, grazie a lui comunque, perché sennò io non sarei nessuno praticamente. Questo discorso così ho detto, io ci provo, sono andata dove vado sempre, che sono San Luca Sound, sono miei carissimi amici, Renato Droghetti, abbiamo fatto un album insieme, e poi c'era Manuel, così, e io con Renato Droghetti, lui ha cominciato a buttare giù delle idee musicali, e io il testo, la melodia è venuta così, boom, così, senza no ma qua l'altra parola, così. È stata quindi, anche quindi un'occasione per superare il tormento della perdita di Lucio? secondo me sì, avevo bisogno di anche di fare sapere che lui mi chiamava alle 3 di notte, no? Poi l'ho fatto diventare un cartone animato, poi ho messo un rapper perché so che a Lucio piaceva tantissimo. Era un po' anche questa cosa qua, era qua a Bologna lo conoscono che era una persona molto particolare, si fermava, periodo non so del sensitivo, cominciava di tutti chiami Anna e questo che diceva no, Maria andava avanti, no? E io di nascosto dice digli che ti chiami Anna, se no non ne veniamo più fuori. Dai, lo conosci anche tu Lucio, se sei sì, di Bologna, era un cartone animato, dai, diciamolo. Poi che un personaggio della città, certo. Bravissimo, bravissimo. Poi abbiamo girato, grazie a una mia amica che si chiama Lesetta Notari, lei si è messa in contatto col comune, perché no, non farle in casa da Lucio, che non ci andavo da tanto. Poi anche il regista ha guardato tutti i luoghi più importanti di Bologna e così è nata questo video che io volevo tanto, perché solo la canzone secondo me sta bene con il video, no? Che lo vedi lui. Certo, restituisce un po' l'atmosfera insomma di Lucio a Bologna. È così, e le strade che piacevano molto a lui, ed è nata così, sai le cose quando nascono così, senza tanto aspettare, non ci ho messo tanto, anche nello studio, quando abbiamo cominciato a registrare, è chiaro che dopo abbiamo sistemato alcune cose, però così, boom, proprio quelle cose che arrivano, non vorrei essere ridicola, però c'è sempre qualcuno, secondo me, dall'aldilà che ci dà una mano per andare avanti. Il fatto che lui mi dice, ti lascio una bicicletta, io dopo ricomincio a fare concerti e ne ho fatti tanti. All'inizio avevo dei problemi perché comunque lì davanti giravo, pensavo sempre chissà se arriva, non so, anche solo l'immagine, a parte che c'era sempre lui perché facevamo anche dei brani di Lucio e poi qualcosa di mio, anche Maintenant, oppure dei brani in inglese, I Call In You, che lui mi ha fatto cantare per praticamente 7 anni, mi ha fatto cantare in tutto il mondo, e quindi ho ricominciato a fare concerti. Quando cantavi Caruso la gente vedevi proprio ferma, silenziosa. Ho imparato comunque a stare un po' davanti al palco, però all'inizio ho fatto tanta fatica e quindi delle volte sembravo amata, dice Lucio, ma come hai fatto a star lì davanti? C'erano i musicisti, sì, ma con chi parli? Cioè, sai queste cose? E così, è uno di famiglia praticamente, ma anche adesso, cioè, anche io. Mantieni un dialogo, diciamo. Tu mi stai chiamando perché mi ha fatto conoscere lui, gira e gira come volete, e tutto merito suo. Lui ha voluto che rimanessi con lui, io venivo dal rock, tu pensa, e quindi quando l'ho conosciuto è stata un'altra strada. È strano però che vieni da un rock, ti fermi 4-5 anni e poi trovi uno, secondo me il più grande artista anche in Europa, non esiste, non dico del mondo perché non voglio, adesso perché ci sono stata io vicino, no? E però io non ho mai sentito una voce così, la creatività, la follia, non, mai. Proprio su questo volevo farti una domanda. Secondo te, nella scena musicale attuale, restiamo in Italia ovviamente, c'è qualcuno che potrebbe essere considerato un erede quanto anche anticonformismo e genialità nella musica? Oddio, difficile come domanda. Ecco, cioè, sì, è un pochino difficile. Il problema è questo, che quando è nato Lucio, no, nel 4 marzo 43, c'era già un altro tipo di musica, più passionale. Se tu vai a vedere cosa ha scritto, anche per esempio Futura ti sta parlando di oggi, come Profondo il mare ti sta parlando del mare che stiamo uccidendo. Quindi era un essere talmente unico. Le sue canzoni non ripetevano mai, ci sono degli artisti che cantano l'amore, poi il brano successivo c'è sempre l'amore, lui no. Lui scriveva, io ho passato delle notti là, lì in via d'Azeglio dove va lo studio, non c'era mai un brano uguale all'altro. Ha fatto Attenti al lupo, ma dopo non ha giocato di nuovo su il mondo quello lì, no, che ha spaccato. Siamo andati all'estero per 4 anni in giro con Attenti al lupo, ha fatto canzone e quindi capito che poteva, no, usare un pochino come fanno tanti. E quindi secondo me fatica trovare un, cioè anche perché il mondo è andato avanti, i giovani oggi con un cellulare vanno dall'altra parte del mondo, si ascoltano musica, diciamo così, Lady Gaga, ma una volta non era così, era diversa. volta usciva, non so, Nila Pizzi, faccio per dire, no? Grande cantante, assolutamente. Sergio Endrigo, possiamo fare l'elenco, era proprio un altro mondo. Tenco, il tempo di Lucio, capito? E secondo me è un po' questo. Faccio fatica a dire quello lì assomiglia a Lucio, quello lì. Trovare, sì, ma... caratteristiche simili. Certo. Sì, caratteristiche. Poi, però Lucio era geniale, proprio una roba. Era molto vero anche quando scriveva. Certo. Pensa cara a Ayrton, che ha scritto poi insieme a quella persona qua di Bologna. Felicità, che io trovo bellissimo. Sempre le stelle, il mare, lui. Iskra, senti, tu prima hai detto che insomma hai trovato anche il coraggio di tornare a fare concerti. Dobbiamo aspettarci qualcosa, progetti futuri, o intanto ti accontenti di vedere l'effetto dell'uomo infinito? Ma intanto vorrei mandare avanti questo progetto, perché comunque c'è intanto la nostra Bologna, visto che tu abiti a Bologna, intanto. Cioè è anche un modo per far conoscere in tutta Italia anche qualcosa all'estero della nostra Bologna, i luoghi belli, la casa di Lucio, gente che magari non ci ha mai pensato o non è riuscita a entrare a casa di Lucio, vede anche la casa di Lucio. Secondo me è stato un mix molto importante anche per Bologna, e anche non ero mai stata alla biblioteca, cioè bellissima, una cosa con tutte queste lampade, cioè, ho visto qualcosa che non ero mai andata a visitare, e quindi è anche una forma culturale secondo me, perché Lucio amava veramente la sua Bologna, veramente tanto tanto. E poi hai visto, no, anche lì le rondini, il sax, che l'ha fatto un ragazzo bravissimo a fare questa cosa. Ti concentri su questo insomma adesso? Sì, per adesso sì. Ho una cosa che ho scritto proprio ieri, che è un brano, diciamo, molto per, diciamo, agosto, quelle cose lì, sai, dove si fa musica dance o musica un po' come funziona adesso. Però vediamo, perché comunque io non lo lascio. Comunque, anche se dovesse uscire questo brano che ho scritto sempre con Renato Droghetti e fatto a San Luca Sound, una prova è stata, però no, mando avanti anche l'altro, cioè certo. non mi stacco da Lucio, non è possibile staccarsi, ma neanche te, perché mi stai chiamando per sapere esatto. come sta Lucio. quasi quasi mi stai chiedendo ma come sta? Come sta? Senti Iskra, io ti ringrazio, e adesso andiamo ad ascoltare, così appunto anche ne abbiamo parlato, ma forse è meglio lasciar parlare la musica, andiamo ad ascoltare L'Uomo Infinito di Iskra Menarini. Grazie mille di ti essere stata con noi. Grazie anche a te, davvero, grazie, è stato carinissimo perché mi hai fatto parlare, le donne sai, bla bla bla bla bla. No, figurati. Ciao, buona giornata, sai, ciao, grazie ancora.